Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Benvenuti alla 12ª puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di nomi e di quanto siano importanti per fare in modo che una bella trama non ne risulti danneggiata. Nel parlare di nomi e della loro credibilità, ho fatto menzione alla sospensione dell'incredulità, traduzione dell'inglese suspension of disbelief. Questa definizione, coniata nell'Ottocento da Coleridge, è una delle assi portanti della letteratura fantastica. Wikipedia dice a suo proposito che consiste nella volontà da parte del lettore o dello spettatore di sospendere le proprie facoltà critiche allo scopo di ignorare le incongruenze secondarie e godere di un'opera di fantasia. Credo che sia superfluo spiegare il perché essi siano tanto importanti. Senza la sospensione dell'incredulità, un lettore smetterà di leggere l'opera al primo accenno di magia, demoni, mostri. Ma non c'è bisogno di un romanzo fantasy per averne bisogno. Alzi la mano che non ha visto un film di James Bond. Quasi qualsiasi cosa faccia l'agente Bond è ai limiti dell'incredibile e spesso ben oltre. Eppure i suoi romanzi prima e i suoi film dopo hanno milioni di fan. Dunque, molte persone, pur di godersi un bello spettacolo, leggersi un buon libro, sono disposte a firmare un tacito patto con l'autore. Questo patto permette a quest'ultimo di trascurare o abbandonare del tutto la veridicità o il realismo e a loro di godersi l'opera senza domandarsi ogni minuto come sia possibile questo o quell'accadimento. Bene, tutto facile quindi? Purtroppo no, altrimenti saremmo tutti autori di successo e invece la stragrande maggioranza di noi fa geometra, operaio, barista, me compreso che per la cronaca non ingegnere. La capacità di narrare una storia, che permette il verificarsi del piccolo miracolo che chiamiamo sospensione dell'incredulità, è rara e non di rado ci capita di vedere film o leggere libri che non ci riescono, pur essendo opere commerciali piuttosto diffuse. A Roma un tempo esisteva il termine americanata. Ecco, io la collego proprio a quelle opere dove l'autore ha superato un limite del quale non si è accorto e si è perso, per così dire, gli spettatori. Gli accadimenti sono troppo forzati, le avventure dei protagonisti troppo incredibili. È buffo, ma non c'è una formula magica. Qualche volta ci sono dei film o dei libri tutti sopra le righe, ma scritti con tale maestria che lo spettatore e il lettore sono disposti a investire una quantità maggiore di sospensione pur di seguire le vicende fino alla fine. Altre volte le storie sono così sciatte, le vicende così poco interessanti, che la disponibilità del fruitore è talmente bassa da esaurirsi molto presto. Per quanto mi riguarda, io cerco di fare in modo di attrarre i miei lettori in modo morbido, portandoli piano piano nel mio mondo, senza strattonarli, e invischiandoli dolcemente, in modo che quando vengono posti di fronte al fatto o all'avvenimento eccezionale, sono già pronti, così se lo aspettino. Immagino che ogni autore abbia un proprio metodo, ma nessuno che io sappia getta in faccia le cose ai lettori. Tutti cercano di sedurli in un modo o nell'altro. Va bene, anche per oggi abbiamo concluso. Possiamo passare alla lettura della 12ª puntata del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 12. Tom continuava a stringere invano le braccia del divoratore, dure e nodose come rami d'ebano. L'essere lo aveva afferrato per il collo e stringeva con forza facendogli scricchiolare le cartilagini e impedendogli di respirare. I suoi polmoni privi d'aria e compressi dal peso dell'avversario erano in fiamme. La vista aveva cominciato ad appannarsi e la forza a venirgli meno. Rinunciò presto alla speranza che Diana potesse raccogliere la spada e aiutarlo. Prima di crollare sotto il peso del divoratore, aveva visto con la coda dell'occhio la ragazza giacere svenuta là dove era stata trascinata di forza. Le zanne gocciolanti dell'essere si avvicinarono fino a che le sue fauci spalancate coprirono quasi tutto il suo campo visivo. La bramosia per il suo sangue, la fame che era per la sua carne, dovevano averlo spinto a non attendere che Tom morisse per asfissia, come sarebbe accaduto lì a pochi istanti. Voleva divorarlo vivo. In un ultimo disperato tentativo, Tom mise entrambe le mani sotto il mento del divoratore e spinse verso l'alto. Le zanne si allontanarono un po', ma la sua forza non era sufficiente a tenerla a distanza. Con una smorfia di ferocia inaudita, il divoratore contrasse i muscoli del collo e, producendo uno stridio crepicciante, la testa tornò ad avvicinarsi. Le zanne giunsero a contatto con la pelle di Tom e la saliva nera vi cominciò a scavare dei solchi acidi. All'improvviso il divoratore si bloccò, come se i tendini schioccanti non fossero più in grado di contrarre i muscoli rigidi. Il suo sguardo latteo si fissò sugli occhi di Tom, quasi a chiedere una spiegazione. Poi una punta d'acciaio spuntò dalla sua bocca. Il divoratore, dopo qualche istante di immobilità assoluta, si girò su se stesso. Attraverso la nebbia che gli oscurava la vista e mentre tentava disperatamente di far entrare l'aria nei suoi polmoni, Tom intravide il viso delicato di Eliel. Il ragazzo teneva la spada puntata verso la testa dell'essere e lo scrutava con i suoi occhi luminosi turchese. Nel suo sguardo non c'era paura. Sputando bava nera e agitando gambe e braccia con movimenti ancora più parossistici del solito, il divoratore si avventò su Eliel. Forse tentava di prenderlo di sorpresa, come aveva fatto con Tom, ma il ragazzo si rivelò esperto in modo sorprendente dell'arte del combattimento. Senza distogliere mai la punta della spada dalla testa dell'essere, fece un passo di lato, mandando a vuoto l'attacco e facendolo rotolare a terra. Un urlo disumano di frustrazione fuoriuscì dalla bocca del divoratore, accompagnato da abbondanti spruzzi di saliva scura. Si avventò di nuovo su Eliel, che ancora una volta ruotò su se stesso all'ultimo momento, e lo mandò a vuoto. Nel ruotare, però, fece compiere una veloce mezzaluna alla sua spada. La lama mozzò di netto la testa del divoratore, che rotolò giù dalla cima della collina e finì fuori dalla loro vista. Le gambe e le braccia dell'essere continuavano ad agitarsi come zampe di una gigantesca lucertola, il cui corpo non si era ancora accorto di essere morto. Le mani artigliarono il terreno a un passo da Tom, ancora incapaci di alzarsi. Poi si irrigidirono all'improvviso. «Tutto bene?» chiese Eliel. «Sei ferito?» «Non lo so», tossì Tom, non ancora in grado di parlare. «Diana?» A quella domanda il ragazzo saltò gli occhi attorno, preoccupato. Con ogni evidenza era arrivato quando il divoratore era già aggredito di Tom e non aveva proprio visto Diana. Quando l'individuo, svenuta una dozzina di metri più in là, si precipitò da lei e la prese in braccio con delicatezza. Quando Tom li raggiunse, la ragazza si era ormai ripresa. A parte qualche graffio, non sembrava aver subito conseguenze dell'aggressione. Altrettanto non si poteva dire di lui, che aveva il collo tumefatto e il viso scorticato in più punti, e un po' della pelle delle guance mangiata dalle salivaci del divoratore. Si reggeva il piede a stento. «Come...» ansimò facendo un gesto vago. «Stavo tornando indietro dove vi eravate nascosti, quando ho sentito gli ululati», rispose Eliel, annuendo come a significare che aveva compreso la domanda. «Mi sono detto che non ci doveva essere tanta già altra gente in giro da quelle ste parti, e che forse voi avevate pensato che non saremmo tornati». Scudo Tom e Diana, che gli sorrise. «Sono contento di non essermi sbagliato». «Cosa è successo con i divoratori che ti inseguivano?» chiese la ragazza. «Temevo che ti avessero preso». «Il mio popolo è un popolo di nomadi e pastori. Il mio padre mi ha insegnato l'arte della caccia», rispose con orgoglio Eliel. «So come si muovono i predatori e i divoratori, e so anche che i divoratori non sono tra i più intelligenti, pur essendo i più feroci». I due non commentarono e rimasero in silenzio ad osservarlo, attendendo che lui terminasse il racconto. «Ho lasciato delle false tracce, ho fatto in modo che si dividessero», riprese il ragazzo. «Poi li ho aggrediti una alla volta. Per fortuna avevano insegnato, ne seguito solo in tre». Tom annuì, ma le parole del ragazzo gli ricordarono che non era stato il solo a fuggire. Si guardò intorno. «Arla?» chiese. «Pensavo fosse con voi», rispose Eliel, alzando le spalle. «Ho perso la vista quando siamo scappati in direzioni diverse. Ero convinto che fosse già tornata». Né Tom né Diana risposero e il silenzio sembrava leggere tra di loro con la stessa intensità con cui l'ululato del divoratore l'aveva spezzato qualche minuto prima. Lo stesso pensiero si affacciò in contemporanea nelle menti di entrambi. Arla era di gran lunga la guerriera più abile ed esperta nel gruppo. «Se era tornata via e non lei...» «Mi preso di sorpresa per maledetto», disse Tom, cambiando discorso. «Un attimo prima non c'era, e l'istante dopo c'era addosso. Credo che sia sbucato da lì», Diana indicò una crepa sul terreno, appena sotto il punto dove Tom aveva perso l'equilibrio. «Siamo stati fortunati che fosse da solo e non in gruppo, come gli altri». «Già», annuì Tom, guardando Eliel. «E forse faremmo bene a non sfidare oltre la nostra fortuna. Direi che è il caso di proseguire la nostra marcia e di uscire dal loro territorio. Che ne pensi?» Il ragazzo annuì. Senza aggiungere nulla, si misero in marcia. Eliel precedeva tutti, tenendo la spada sguainata. Diana lo seguiva, tentando di tenere il suo passo e di non rallentare il gruppo. Tom chiudeva la fila. Anche lui aveva snudato la spada di René Grenion. Non era riuscito a usarla la prima volta che ne aveva avuto occasione, ma sperava di imparare dagli errori. Non avrebbe avuto una terza possibilità. Nella cella l'oscurità era talmente fitta da sembrare solida. I suoni si venivano amplificati e prendevano strani echi riflettendosi sul basso soffitto di pietra e sulle pareti umide. lo sgocciolio che lo aveva accompagnato per anni, scandendo il tempo infinito con regolarità oltraterrena. Lo squittio dei topi, che di tanto in tanto si avvicinavano per vedere se il prigioniero fosse finalmente morto. I passi lontani che precedevano il rugginoso abbrirsi di forza, sempre più raro. E poi il silenzio, che pur non essendo mai veramente tale, gravava sulla cella come una cappa di piombo. Isolava quel luogo da tutto il resto di notturni, ovattava i suoni, intorpidiva le orecchie. Come ogni giorno, venne interrotto dagli stessi rumori. Lo scalpiccio di stivali e piedi nudi. Le imprecazioni del carceriere chiamato Rimiar, la chiave che si infilava nella serratura e questa che si apriva con uno scatto secco, il cicolio dei cardini. Linnaeus non aveva mai contato i giorni per evitare di impazzire, ma ne erano trascorsi migliaia da quando era prigioniero. Nonostante Vama avesse lanciato su di lui un sortileggio che lo costringeva a marcire in eterno, sentiva che la sua ora era quasi giunta. Non era la sua volontà essere spezzata, ma il corpo mortale. La magia della parola che lo aveva accompagnato per tutta la sua esistenza prima di attraversare il barco era scomparsa al suo ritorno. Le torture cui era stato sottoposto avevano scavato solchi profondi sul suo corpo e nella sua anima, ma lui aveva resistito. La speranza di poter attraversare il barco di nuovo, di portare Diana nel suo mondo, verso il suo destino, gli aveva dato la forza. Ma ora questa forza stava scivolando via, come l'acqua putrida che sgocciolava sulle pesanti pietre delle pareti della cella. Anche se non aveva mai contato i giorni, qualche istinto dell'interesse doveva in qualche modo avere tenuto conto dello scorrere del tempo. Pur tenendo presente della diversa velocità con cui fluiva nell'altro mondo, quello dove viveva Diana, esso doveva essere ormai scaduto. Quelle maledette catene di arcanio gli avevano impedito ogni movimento. Se mai avesse sperato che una piccola parte del potere che aveva posseduto tornasse, il metallo che gli serrava polsi e caviglie l'aveva impedito. E allora anche il sortileggio di Vama non bastava a trattenere lo sconforto che lo accompagnava ogni interminabile minuto della sua esistenza buia. Aveva fallito. Non era riuscito a tenere fede al suo impegno con Gremian. Sentì una voce chiedergli di alzare la testa. Non lo fece. Allora una mano sgarbata lo tirò per i capelli e un cucchiaio di legno si infilò nella sua bocca. La solita, orrenda brodaglia gli riempì la bocca e lui non ebbe la forza sufficiente per sputarla via. Scese lenta giù per la gola e subito un nuovo cucchiaio pieno si fece strada tra le sue labbra. No, non avrebbero permesso che si lasciasse morire di fame. Vama era troppo arrabbiato con lui per lasciarlo andare, in qualunque senso, ma sentiva che l'ora era vicina. Uscirono dal territorio dei divoratori prima che calasse di nuovo la notte senza stelle di notturni. Gli occhi di Diana caddero su un oggetto simile a quello che avevano trovato il primo giorno prima. Questa volta non era una pietra, ma il corno di un animale. Anche su di esso era inciso un rozzo simbolo del tutto simile all'altro ed era macchiato di sangue rappreso. Nonostante fosse un oggetto inquietante, non poterono fare a meno di tirare il sospiro di sollievo. La loro marcia si era fatta molto lenta. Diana aveva spesso bisogno di fermarsi e anche quando camminava non riusciva a sostenere il ritmo dei giorni precedenti. Eliel si offrì perfino di portarla per un po' in braccio e, nonostante la corporatura esile, si la sollevò come fosse una bambola. A fine giornata, improvviso come se si fosse sollevato dalle profondità della terra, in lontananza apparve il picco dove sorgeva la fortezza della solitudine. Nessuno di tre l'aveva mai vista prima, ma non dubitarono neppure per un momento di cosa fosse quella guglia che sembrava conficcata come una spada in un cadavere. Per sicurezza, Tom tirò fuori di tasca la mappa. La fortezza della solitudine era uno scarabocchio nel bel mezzo del nulla. Sembrava passata una vita da quando l'aveva vista la prima volta alla luce tremolante della torcia, nelle viscere della rocca delle tenebre. Ora l'avevano quasi raggiunta. Sospirò. Gli attendeva la parte più difficile. «Propongo una sosta», disse. Temo che come noi riusciamo a vedere la fortezza qualcuno da lassù possa scorgerci. Eliel annuì e posò con delicatezza Diana a terra. Scrutò a lungo in silenzio la sagoma brumosa del picco e la forma scura che la sormontava, aggrappata esso come una sanguisuga. «Non sarà facile entrare», osservò Tom. «Avete idea di come pensasse di fare Arla?» I due scossero la testa. La donna aveva semplicemente rimandato il problema quando fossero arrivati. Ma ora lei non c'era. Atteso che l'opaca luce del giorno cedesse il passo al buio, poi si misero di nuovo in marcia. Avevano poco più di un'ora prima che le tenebre divenissero così fitte da impedire qualsiasi movimento. Si incamminarono in silenzio e a testa bassa, impegnati a guardare con attenzione dove posavano i piedi per evitare di spezzarsi l'osso del collo. Quando fu impossibile vedere oltre il proprio naso, si fermarono e mangiarono qualche ispido frutto raccolto durante la marcia. non dissero una parola. Era come se un peso si fosse all'improvviso posato sulle loro spalle. Incombeva su di loro il timore di non riuscire a entrare nella fortezza, di scoprire che Linnaeus era morto e sepolto da decenni, e infine la paura che, seppure vivo, il mago della parola non potesse aiutarlo. Dormirono un sonno disturbato, e Liel e Tom si alternarono a scrutare il nulla nei turni di guardia, mentre Diana si lamentava nel sonno borbottando frasi sconnesse. Appena Tom riuscì a scorgere le punte dei suoi piedi, svegliò gli altri due e si misero di nuovo in marcia. Diana era quasi catatonica, rispondeva a stento alle domande e si reggeva a malapena in piedi, ma non potevano attendere oltre. Eliel la prese di nuovo in braccio. Quando si fermarono dietro il crinale di una collina più alta di quelle che la circondavano, la fortezza della solitudine incombeva ferrigna su di loro. Sporgendosi appena da dietro una roccia, studiarono a lungo la guglia su cui la fortezza era stata costruita. Tre dei quattro irregolari lati della costruzione davano sul vuoto. Precipizi profondi, centinaia di metri, si aprivano ai piedi delle mura, rendendo impossibile ogni tentativo di ingresso da lì, a meno che non si avessero le ali. Sul quarto lato c'era un'unica porta a interrompere le alte mura di pietra massiccia di colore grigio opaco. Era protetta da un grande cancello metallico che lo rendeva simile a gigantesche fauci colme di zanne. Una stretta stradina si insinuava serpeggiando tra i costoni rocciosi e terminava proprio all'ingresso della fortezza. Non c'erano altre vie per raggiungerla. Mentre erano intenti a osservare la costruzione, Tom ed Eliel sentirono la mano di Anna appoggiarsi sulle loro spalle. Si girarono e guardarono nella direzione che la ragazza stava indicando. Un carro, trainato da un solo mulo, arrancava lungo la stradina, salendo lento verso l'ingresso della fortezza. Pur sforzandosi, non riuscirono a capire cosa trasportasse, ma con ogni probabilità erano viveri oggetti di uso quotidiano, coperti con un panno rappezzato. Il carro alla fine giunse davanti all'ingresso della fortezza. Il guidatore fece cenno con la mano e dopo qualche istante il cancello si sollevò con uno stridio che echeggiò fino a dove si trovavano loro. Il guidatore spronò il muro e il carro scomparve inghiottito dalle fauci. Tom si girò e sposò lo sguardo pensieroso su Eliel, che glielo restituì in silenzio. «Stai pensando quello che penso io?» chiese. Il ragazzo annuì. «Il prossimo carro, sperando di non dover attendere troppo», rispose. «Ma come faremo a impadronircene senza che ci scolgano? Il guidatore non dovrebbe essere un problema, anche senza le frecce di Arlo, ma da lassù ci vedrebbero». «Hai ragione», rispose Tom, sporgendosi leggermente per osservare di nuovo la strada. «Ma forse c'è un punto morto». Eliel e Diana si accostarono e lui allungò il braccio per indicare. «Là c'è una curva a gomito. Per qualche minuto il carro è invisibile dalla fortezza. Se siamo abbastanza rapidi e fortunati possiamo impadronirci e tentare di entrare». «In tre siamo troppi», mormorò Eliel. «Magari due di noi potrebbero nascondersi sotto il telo. Non mi sembra che abbiano controllato quello che è entrato». Tom e Diana annuirono. Per quanto rischioso fosse quel piano, era l'unico possibile. Era deciso. Attesero l'intera giornata nascosti dietro il crinale della collina. Nel frattempo nessun altro arrivò alla fortezza e solo il carro che era giunto la mattina se ne andò a metà giornata. La presero con una buona notizia. Se c'era poco via vai, forse significava che la fortezza era presidiata da una guarnigione di piccole dimensioni, che aveva bisogno di pochi viveri. Diana era un'ombra pallida appoggiata a una roccia. Solo il sorriso stanco illuminava il viso di tanto in tanto quando scambiava qualche parola con Eliel. Tom continuava a ripetersi che ormai erano giunti alla fine del viaggio e che bastava che lei resistesse ancora un po', ma dentro di sé un tarlo continuava a scavare in profondo. Forse il male che aveva albergato troppo a lungo dentro di lei, divorandola come un cancro feroce. Forse era troppo tardi, neppure Linnaeus era più in grado di far invertire il processo. Forse Linnaeus era morto. Quei cattivi pensieri gli fecero compagnia per tutta l'interminabile giornata. Il gruppo si mosse quando la luce calò a sufficienza per rendere la costruzione che incombeva sulle loro teste poco più che una gigantesca ombra nel cielo. Camminarono chini, scesero dal fianco della collina e presero la stradina, seguendo i tortuosi tornanti fino al punto che avevano individuato. Salirono in cima a una grande roccia, attorno alla quale la stradina si avvolgeva nella sua faticosa salita. Se erano fortunati, il prossimo carro che fosse passato lì senza scorta sarebbe stata la loro mercé. Si accucciarono sulla sommità del masso e attesero che la notte, calata su di loro pesante come una lapide, avesse fine. La fortuna cominciava a essere dalla loro, a quanto sembrava. La caligine cinerea non aveva ancora ceduto il posto alla luce del giorno quando un carro si affacciò arrancando nella vallata sottostante. Poi cominciò a inerpicarsi lento nell'ascesa verso la fortezza. Senza dire una parola, i tre scrutarono con attenzione la sagoma scivolante che si avvicinava. Sembrava del tutto simile a quella del giorno precedente, guidata da una sola persona con un rozzo telo che copriva gli oggetti trasportati. Non sarebbe stato un problema impadronirsene. attesero che il carro uscisse fuori dalla loro visuale al primo tornante e scesero dalla roccia, piazzandosi in modo da non farsi vedere fino all'ultimo istante. I minuti passarono interminabili, prima che i cicoli delle ruote di legno li avvertissero che il carro era ormai dietro la curva. Quando apparve il muro scheletrito, Tom fece il gesto a Eliel per dirgli che doveva attendere. Poi, dopo un attimo, abbassò il braccio e i due si lanciarono sul guidatore, gettandolo a terra prima che si rendesse conto di quello che succedeva. Eliel gli puntò la spada al petto, intimandogli il silenzio. Tom nel frattempo aveva bloccato il muro che stava proseguendo lungo la strada, incurante delle sorti del suo padrone. Eliel intimò all'uomo di spogliarsi e si infilò i suoi abiti sudici. Si girò verso il carro in cerca di qualcosa per legarlo, quando vide Tom spalancare gli occhi e sentì un grido provenire dietro le sue spalle. L'uomo si era messo a correre nudo, urlando come un forsennato. Tom rimase immobile, colto di sorpresa, ma Eliel scattò veloce come un cobra. La sua spada volteggiò nell'aria, disegnando archi veloci e argentati, e si infilò nella schiena dell'uomo, che crollò a terra morto sul colpo. Si scambiarono un'occhiata. Gli occhi luminosi del ragazzo riflettevano il suo pensiero. Non mi ha dato alternative. Tom annuì. Si avvicinarono al corpo. Eliel raccolse la spada, poi alzarono di peso il cadavere e lo gettarono in un crepaccio, coprendo con sabbia e pietre le tracce del sangue. Tornarono di corsa al carro. «Vai alla guida, presto!» disse Tom mentre si infilava sotto il telo. «Abbiamo perso troppo tempo e non voglio far insospettire la guarnigione». Eliel obbedì senza dire una parola, prese le redini nel muro e lo spronò ad rimettersi in marcia. Tornarono in breve in vista della mura e della fortezza della solitudine. Non si vedeva nessuno, ma Tom, che sbirciava in alto da sotto la coperta, era convinto che qualcuno stesse osservando loro. Sperava che la noia di tutti i giorni uguali avesse reso le guardie meno attente, a quanto tempo ci metteva un carro a inerpicarsi fin lassù. Passarono una decina di minuti, quando il mulo scartò all'improvviso. Erano al termine di una curva a gomito, che aveva portato di nuovo il carro al di fuori della vista della fortezza. Qualcuno si era parato improvvisamente di fronte al mulo, costringendolo a rizzarsi sulle zampe posteriori. Era una figura ammantata dal lercio vestito dei negromanti, con il cappuccio calato sulla testa, che lasciava in ombra i tratti del suo viso. Thordu era arrivato nel territorio dei divoratori quando la notte stava già sbiadendo. Non c'era stato bisogno di vedere la pietra macchiata di sangue con il rozzo simbolo grattato sopra. Li poteva sentire. Erano creature delle tenebre come lui, e come chi stava proteggendo il gruppo che inseguiva. Il fatto che fossero troppo selvaggi per combattere nell'esercito di Vama non ne faceva dei nemici. Non ubbidivano ai negromanti, ma odiavano con tutta ferocia che li contraddistingueva gli umani e le creature degli abissi. Se i quattro erano passati di là, loro se lo sapevano e non era affatto escluso che li avessero catturati. Sperò che non li avessero già divorati, perché voleva portarli vivi a Vama, che ne avrebbe deciso la sorte. Aveva buone speranze. I divoratori avevano i loro strani rituali e con ogni probabilità una preda così lauta e inaspettata aveva diritto a una cerimonia. Con l'aumentare della luce si era infilato in un anfratto che si era rivelato lo stretto ingresso in una caverna. Con un po' di esplorazione aveva capito che era collegato ad altre caverne in una fitta ragnatela che si stendeva sotto la roccia delle colline sovrastanti. Un'ottima notizia, perché questo gli avrebbe permesso di continuare la marcia anche durante il giorno. Incontrò la tribù dei divoratori dopo lunghe ore di marcia sotterranea. Per individuarli non ci fu bisogno degli ululati agghiaccianti con i quali terrorizzavano i nemici. I suoi occhi sensibilissimi avevano visto le tracce fresche sulla roccia umida e la vibrazione dei loro movimenti era giunta alle sue orecchie prima ancora che loro la scoprissero. Si pararono all'improvviso di fronte a lui. Erano 7 e, forse, sarebbero stati in grado di sopraffarlo. Erano nel loro territorio ed erano gli esseri più feroci del regno di Vama. Si fermò e lasciò che lo osservassero con i loro occhi lattei e che annusassero il suo odore di morte, che capissero che era simile a loro. Poi i suoi sensi individuarono nelle tenebre dietro di lui altre presenze, altri divoratori che si tenevano un po' più distanti, decine. La paura non era uno dei sentimenti che un'ombra potesse provare, ma si rese conto che avrebbero potuto sopraffarlo. Posò con noncuranza una mano sull'elsa della spada che teneva al fianco. «Cosa ti porta il nostro territorio, ombra?» La voce sgradevole del divoratore che doveva essere a capo della tribù gli esplose nella mente. Come lui, essi non erano obbligati a parlare per comunicare con altre creature delle tenebre. «Inseguo dei nemici di Vama», rispose. «I nemici del negromante non sono nemici dei divoratori». La risposta lo colse impreparato. Si era aspettato di dover mercanteggiare con loro per portare via i prigionieri, oppure di sentirsi dire che aveva un ottimo sapore. Ma quello no, era un'assurdità. Tutti gli umani erano nemici dei divoratori. «Sono 4 persone», continuò, facendo finta di non aver afferrato quello che gli era stato detto. «Uno di loro, con ogni probabilità, è un figlio degli abissi. Hanno ucciso 6 dei nostri e esplose la voce e il divoratore si fece minacciosamente avanti. Vamo dalla caccia ai suoi nemici nel nostro territorio, risvegliandoci affamati del nostro letargo. Chi placherà la nostra fame ora che siamo svegli? Non era intenzione di Vama, cominciò a rispondere Lordu, che fu immediatamente interrotto. Forse questa sera vedremo se un'ombra è buona da mangiare, ruggì il divoratore. Lordu si guardò attorno e valutò la situazione. I due divoratori ai lati stavano lentamente spostandosi verso le sue spalle e in breve sarebbe stato circondato. Però aveva colto un'incertezza nel tono aggressivo del capo. Forse il vero capo tribù era stato ucciso insieme agli altri cinque e lui ora ne aveva preso il posto. Se l'avesse ucciso, con ogni probabilità gli altri sarebbero fuggiti. Era una possibilità. L'altra era aspettare che gli saltasse addosso e vedere se era più forte un'ombra o qualche decina di divoratori. Decise che non avrebbe atteso. Con un movimento che sembrò poco più di una vibrazione nell'aria umida della caverna, Lordu svanì e riapparve un attimo dopo accanto al capo dei divoratori. Una corta spada dalla lama nera come una notte gli era apparsa in mano e lui gli fece percorrere un breve arco che ebbe come culmine il collo della creatura. Per un istante, questi lo guardò con occhi vacui e feroci. Poi la testa gli si staccò di netto dal collo e rotolò a terra, perdendosi nel buio. Gli altri rimasero immobili, come a decidere cosa fare. Poi cominciarono a correre via, lanciando i loro urlati venati di una traccia di paura. Lordu non diede la possibilità di allontanarsi a quello che gli era più vicino. Con un balzo gli fu addosso e lo costrinse a terra con la lama puntata alla gola. «Ho ucciso il vostro capo», gli disse senza permettere che sollevasse la testa da terra. Adesso sono io che comando. Il divoratore non rispose, ma Lordu lesse nei suoi occhi biancasti paura e accettazione. Aveva la situazione in pugno. Dove sono i quattro? Chiese. Sono fuggiti. Non so come abbiamo fatto. Nessuno del gruppo che li inseguiva è tornato. Un attimo di silenzio. Se non mangio subito, morirò anche io. Lordu aumentò la forza con la quale appoggiava la lama sul collo decomposto del divoratore. Se davvero era così affamato, avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di non tornare nell'oltremondo. Per quanto feroci i divoratori, non erano abbastanza intelligenti per mentire, e comunque non avrebbero avuto senso dire il falso raccontando un fallimento della tribù, semmai avrebbero fatto il contrario. No, i quattro dovevano essere davvero sfuggiti. Peccato, per un istante aveva pensato che il suo inseguimento fosse giunto al termine. Il gruppo si rivelava sempre più potente. Essere passati attraverso le linee schierate dell'esercito dei negromanti avrebbe potuto essere considerata anche fortuna. Uccidere un branco di divoratori in caccia significava essere forti e astuti. Un sorriso gli divise in due il volto inespressivo come un taglio orizzontale. Il divoratore dovette credere che fosse il preludio della sua liberazione e si rilassò con un crepitio di tendini e pelle morta. Lordu invece con un gesto improvviso lo sgozzò e si infilò la lama ancora sporca dalla bava scura nella cintura. Gli altri divoratori non l'avrebbero attaccato. Erano troppo affamati per potersi permettere una caccia che avrebbe potuto essere vana. Sarebbero tornati alla catalessi che li avrebbe fatti sopravvivere fino a quando altre persone avessero violato il loro territorio. Riprese il suo cammino verso la fortezza della solitudine, dove lo aspettavano avversari degni di lui. Lo scarto laterale del mulo aveva messo il carro di traverso lungo la stradina polverosa. L'uomo incappucciato era rimasto lì, immobile con una mano alzata, mentre Eliel tirava le redini nel baio, tentando di evitare che scivolasse nel precipizio e si apriva appena un passo oltre gli zoccoli delle zampe anteriori. Tom e Diana si aggrapparono per evitare di essere sbalzati fuori e si morsero la lingua pur di non pronunciare una parola. Non era ancora detto che li avessero scoperti. Eliel non era della stessa opinione. Mise la mano sulla spada e fece per estrarla, ma l'uomo fu molto più veloce di lui. Con un gesto fulmineo trasse una spada da sotto il mantello e la puntò al petto del ragazzo. Non lo farei se fossi in te. La voce, benché camuffata dal cappuccio, era familiare. Possibile che... Con un rapido gesto il negromante si tolse il cappuccio. Era Arla. Sorpreso? Chiese in tono di schermo e senza abbassare la punta della spada. Pensavi di avermi seminato nel territorio dei divoratori? Elia non rispose, limitandosi a osservare il filo dell'arma. Avete fatto un buon lavoro nel cancellare le tracce dietro di voi, continuò la donna, tagliente. Ma non avevo bisogno, visto che sapevo dove stavate andando. Il ragazzo continuò a tacere, ma la sua espressione si indurì. In quel momento le teste di Tom e Diana emersero dal telo che copriva il carico. Arla! Esclamò l'uomo, sorpreso. Pensavamo che non ce l'avessi fatta. Sì, forse c'era anche qualcuno che lo sperava, rispose lei. Immagino che questa mestiscella significhi che avete deciso di entrare così nella fortezza. Le osservò come se stesse valutando la cosa. Trascorse dei secondi, durante i quali Tom rifletté che non l'aveva vista arrivare e che non sapeva come ha fatto a raggiungere. ma non disse nulla. L'arma puntata al petto di Lel era una minaccia anche per loro. «Va bene, sbrighiamoci», disse alla fine Arna, infilando con un movimento fluido l'arma sotto il mantello e raggiungendo Tom e Diana dietro il carro. Poi si rivolse a Eliel. «Se ti chiedono qualcosa, di che ti sarà sfilata una ruota». Eliel la scrutò, infilandosi sotto il telo senza dire nulla, né fare un cenno di assenso. Dopo qualche istante il carro ripartì sobbalzando. Il peso della fortezza sembrò gravare su di loro un po' di più ogni metro che avanzavano. Alla fine era come un macigno enorme che impediva loro quasi di respirare. Potevano quasi avvertire la sofferenza di tutti coloro che erano stati imprigionati là dentro. Ci volle quasi un'ora prima che una voce roca li fermasse. I tre sotto il telo si immobilizzarono, trattenendo persino il respiro. «Perché non è venuto il solito carrettiere?» chiese brusca la voce, avvicinandosi. «Ieri mio padre si è rotto una gamba», rispose prontamente Riel. «Hai chiesto a me di venire. Tuo padre, eh? Non ci assomiglia affatto, ragazzo». In quel momento Diana ebbe una contrazione che le causò una smorfia sul volto e un suo brusco movimento fece muovere un po' il telo. Nonostante il gelo che calò su di lui per la paura che potessero scoprirli, Tom avvertì una strana sensazione. Era come se ci fosse una vibrazione nell'aria, una vibrazione soprannaturale. «Mia madre era una nomade», continuò Eliel, sempre mantenendo la calma. «Nomade?» La guardia sembrò non essersi accorto del movimento di Diana. «Stranissimo. Si dice che traffichino anche loro con le creature delle tenebre, come se non bastassero gli evocatori necromanti. Se fossi in te non lo direi a voce così alta», lo interruppe un'altra voce più lontana, in tono irridente. «Rama ha orecchie dovunque, non ama le critiche». Risero entrambi di quella che doveva aver considerato una battuta divertente. Ma nel frattempo la guardia doveva aver fatto cenno a Eliel di entrare, perché il carro riprese a muoversi. I tre sentirono lo scricchiolio di un pesante cancello che si alzava di fronte a loro, poi, dopo qualche istante, che si richiudeva alle spalle. Il carro avanzò sobbalzando. Tom si trovò a riflettere un'ultima volta sulla sensazione che era calata su di lui e che non lo abbandonava. Sentiva ancora la vibrazione. Si ripete che tutto era andato per il meglio. Erano dentro la fortezza della solitudine e dovevano trovare Rinerus e liberarlo. Per le sensazioni ci sarebbe stato tempo in seguito. Il carro si infilò in un edificio che aveva tutta l'aria di essere un magazzino. Un'altra voce accolse Eliel, ma quando la grande porta si chiuse dietro il carro, la voce tacque dopo un tonfo attutito. Il ragazzo sollevò il telo. «Tutto a posto», disse. «Il magazziniere non ci darà fastidio per le prossime 2 o 3 ore». Arla annuì, saltando giù dal carro e guardandosi attorno attenta. Sembrava una belva in caccia. «Quante guardie hai visto venendo qui?» «Non molte. Una dozzina, a parte i 2 del cancello. La fortezza non sembra molto presidiata». La donna non commentò le sue parole e si limitò a prendere un secchio mezzo pieno di acqua e avvicinarsi al magazziniere svenuto. Lo sollevò per il bavero e gli versò l'acqua sulla testa. L'uomo si svegliò e si agitò lamentandosi. «Silenzio, o ti apro nella gola un'asola dove potrei infilarci i bottoni della camicia», sussurrò all'orecchio del malcapitato, puntando il coltello all'altezza del bozzo. Questi annuì pallido. «Cosa volete?» balbettò sottovoce. «Non c'è niente da rubare qui. Le domande le faccio io», sibilò Arla. «Esiste un modo per entrare nelle segrete e arrivare alla cella di Rinerus senza farsi scoprire?» Io non lo so», frignò l'uomo. «Sono solo il magazziniere, devi chiedere una guardia». «Se non sai nulla, non ci servi». Il coltello gli incise la pelle e le fece fuoriuscire una goccia di sangue. «Se non ci servi, l'unico modo per essere sicuro che non ci creerai problemi è ammazzarti». L'uomo sbiancò ancora e si mise a piangere, balbettando. Arla non si impietosì e aumentò la pressione della lama sul suo collo. Sarebbe bastato spingere appena un po' di più per tagliargli la coda. «No», gridò l'uomo, che aveva capito che la minaccia non era un inganno. «Forse potete passare per le fogne». «Forse?» chiese Gerita. «Sono sicuro. Le fogne collegano tutti gli edifici della fortezza e le segrete sono appena sopra il loro livello». «Ottimo», disse Tom, che aveva ascoltato con attenzione. «Legalo, andiamo. Diana ha avuto un altro peggioramento, non possiamo perdere ancora tempo». «Niente affatto», Arla scosse la testa. «Lui viene con noi. Se ha detto la verità, ci guiderà nelle fogne. Se ha mentito, lo sgozzo come un capretto». «Ho detto la verità, ho detto...» piagnucolò il mio magazziniere, interrotto da un brusco gesto della donna. «Vedremo». Lui si trovò l'accesso più vicino alle fogne. L'uomo indicò il fondo del magazzino. Arla e Eliel lo alzarono di peso e lui li portò verso una pila di casse, indicando sotto di essa. I due la spinsero di lato e scoprirono una grata. Il magazziniere annuì, il viso marido di sudore. Alzarono la grata e presero una torcia a testa da una cassa di vicino. Arla fece la pressione con la punta del coltello sulla schiena dell'uomo, che si affrettò a scendere la stretta scaletta scavata da una pietra. In breve furono avvolti dalle tenebre umide e maledoranti del sistema fognario della fortezza. Scesero all'altezza di una specie di crocevia, del quale si allontanavano quattro basse gallerie. Il suolo era coperto di fango viscido e le pareti trasudavano rigagnoli di acqua sporca. Dopo un attimo di incertezza, il magazziniere si incamminò verso una direzione. «Pensaci bene», gli disse Arla prima di seguirlo. «Non abbiamo tempo da perdere e ogni errore ti costerà un dito». L'uomo si bloccò all'improvviso, serrando le mani e portandole sotto le ascelle per proteggerle. Si girò di scatto un paio di volte, come una faina che valuti una traccia olfattiva. Poi riprese a camminare per una galleria diversa da quella iniziale. Un sorriso crudele scoprì i denti di Arla. Lo seguirono uno dietro l'altro. L'uomo apriva la fila e Liel la chiudeva. Attorno a loro l'oscurità si stringeva come una gigantesca mano nera. Sopra di loro potevano quasi percepire il peso della roccia con la quale era costruita la fortezza della solitudine. Gli unici suoni che si sentivano erano lo sgocciolio dell'acqua del soffitto e delle pareti e lo squittio insistente dei topi che non entravano mai nel loro raggio illuminato delle torce. Il magazziniere si fermò di colpo, indicando delle scalette che salivano nel buio. «Dovrebbero essere queste», mormorò tremante, senza togliere le mani sotto le ascelle. Arla non rispose e cominciò a salire arrampicandosi come una gatta. Giunta al culmine della scaletta, spinse in alto la grata coperta di muschio e sparì nelle tenebre. Non ci volle molto perché tornasse indietro. «Ha detto la verità», disse a bassa voce. «Ci sono delle celle vuote quassù, salite». Il gruppo obbedì e in breve furono tutti a livello superiore. L'unica differenza percepibile con le fogne era la mancanza di fango a terra. Per il resto era tutto identico, il soffitto basso, lo sgocciolio, il cattivo odore e il rumore dei topi. Si guardava intorno, le celle in quel corridoio erano tutte vuote, però in fondo si vedeva una curva a gomito e con ogni probabilità ne avrebbero trovate delle altre. Si incamminarono silenziosi. Arda aveva di nuovo puntato il coltello alla schiena del magazziniere. Se avesse lanciato anche solo un grido, sarebbero stati perduti. Giunsero in un nuovo corridoio e subito notarono la differenza con il precedente. Qui c'erano delle torce accese infilate in anelli sul muro, poste a distanza di una mezza dozzina di metri l'una dall'altra. Le porte e le celle erano tutte socchiuse, tranne una. Si accostarono e Tom tentò di aprirla, invano. Non si riusciva a penetrare il buio profondo che avvolgeva l'interno della cella, ma gli sguardi che si scambiarono avevano tutti lo stesso significato. Lo avevano trovato. «Dobbiamo aprire la porta», sussurrò Tom. «Non ci usciremo senza chiave», rispose Liel, scrutando le placche di metallo che ricoprivano il legno massiccio, e comunque non senza fare molto rumore. Arla annuì e si guardò attorno. «Credo che dovremmo aspettare», disse. Si infilò in una cella accanto a quella chiusa e fece segno agli altri di seguirla. Sarebbe stata una lunga attesa. Il magazziniere era agitato, si guardava attorno nervoso, ma non disse mai nulla. Diana si era stesa a terra in posizione fetale e aveva cominciato a sonnecchiare. Passarono varie ore. Ad un tratto Eliel alzò una mano, attirando l'attenzione di tutti. Aveva sentito un rumore giungere dietro l'angolo del corridoio. Il rumore di passi si avvicinò, assieme al respiro pesante di una persona e a quello leggero di un'altra. Uno dei due portava un'armatura che cigolava di ruggine producendo echi nel corridoio. Si alzarono in piedi senza un rumore. Arla sfilò la spada dal fodero, imitata da Tom, mentre Eliel si avvicinò il coltello alla gola del magazziniere, in un muto invito al silenzio. Rimasero immobili finché non sentirono la serratura lamentarsi e scattare. A quel punto Arla sbucò dalla cella e aggredì la guardia. La colluttazione fu breve, perché l'uomo era stato colto di sorpresa. Con un tonfo metallico cadde a terra e rimase immobile, con il collo piegato in maniera innaturale. Si precipitarono all'interno spingendo da parte lo schiavo tremante, cui era caduta la ciotola di legno. La luce delle torce disperse l'oscurità che si addensava nella cella. Il corpo riverso di un uomo giaceva incatenato alla parete di fondo della cella. Nonostante avesse la pelle diafana per gli anni passati al buio e fosse macilento per l'immobilità, Diana lo riconobbe all'istante. «Venerus!»